Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Otto giorni fa la tragedia del Natisone, mentre continuano le ricerche di Christian, il sindaco di Premariaco pensa ad una statua che ricordi i tre ragazzi abbracciati, travolti dalla piena. Nella gran parte delle scuole oggi orario ridotto e ultimo giorno di lezioni, diversi gli istituti che nelle prossime ore si prepareranno alle votazioni di sabato e domenica con l'allestimento dei seggi. Seconda udienza in corte d'assise a Udine del processo a carico di Bruno Macchi, l'uomo di 28 anni, reo confesso dell'omicidio il 19 aprile del senza tetto Luca Tisi, 18, i testimoni in aula. Sempre meno rispettate le tempistiche indicate dal medico per seguire visite ed esami, è possibile richiedere il rispetto dei tempi direttamente alle aziende sanitarie, la nostra intervista al Tribunale del Malato. Il trasloco delle medicine e del pronto soccorso nel nuovo ospedale di Pordenone prenderà il via in ottobre per concludersi in dicembre, il cronoprogramma illustrato dal direttore generale. Fine settimana con tempo incerto, da lunedì forte peggioramento in tutta la regione con abbondanti piogge, le previsioni del venerdì col nostro esperto dell'ARPA. I nostri mari sono sempre più caldi e sempre più salati, aumentano le meduse a discapito delle specie locali, il nuovo report del WWF sul Mediterraneo al centro dei cambiamenti climatici. Basket, Trieste a un passo dal ritorno in A1 dopo la seconda vittoria contro Cantù lunedì al Palatrieste Gremito, la prima opportunità per ottenere la promozione. Le 12:31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Lorenzo Gerlinzoni. In apertura ancora la tragedia di Premariaco, la prossima settimana è previsto un peggioramento delle condizioni meteo, per questo i sommozzatori stanno approfittando di questa finestra di bel tempo per cercare ancora Christian nel Natisone. Un monumento che riproduca l'abbraccio dei tre ragazzi che tentano di resistere alla corrente, un'immagine che una settimana fa ha commosso l'Italia. È l'idea del sindaco di Premariaco, Michele De Sabata, per ricordare la tragedia del Natisone, mentre si continua a cercare Christian Molnar per l'ottavo giorno di fila. I sommozzatori stanno esplorando la forra sotto il ponte romano, dove ieri è stato ancorato un gommone. Le condizioni sono le migliori da quando le operazioni sono cominciate. Buona luce, acque più trasparenti, livello basso e portata a ridotta. Una finestra di opportunità da cogliere prima del peggioramento del tempo previsto per la settimana prossima. Le ricerche andranno avanti almeno fino a domenica. Dal lato dell'indagine procede il lavoro discreto di procura e carabinieri che hanno acquisito vari elementi, tra cui la registrazione delle telefonate di Patrizia Cormos al numero per le emergenze, il 112, in cui si sente la sua preoccupazione che cresce col passare dei minuti. Al vaglio anche il cellulare di Patrizia, trovato domenica mattina sull'argine del fiume. Il lavoro degli investigatori è finalizzato a capire se, seguendo il protocollo previsto per questi casi, si sarebbe potuta evitare la disgrazia, per esempio allertando subito l'elisoccorso regionale, richiesto una ventina di minuti dopo la prima telefonata. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Per molte scuole della regione, per gli studenti che non sono impegnati con gli esami di terza media o con gli esami di maturità, oggi è l'ultimo giorno, quasi ovunque, uscita anticipata in molti istituti, il via ai lavori per l'allestimento dei seggi. Ultimi abbracci, qualche lacrima e tanta festa per gli studenti del Friuli Venezia Giulia. La scuola è finita. C'è chi ha preparato cartelloni, chi si concentra sugli esami e chi invece pensa già all'estate, una fine dettata dalla settimana corta, soprattutto a Trieste, e dalla concomitanza delle elezioni europee, con molti istituti che da questo pomeriggio diventano sede di seggio elettorale, con l'inizio delle preparazioni per il voto di sabato e di domenica. Con questo anno scolastico è stato archiviato il periodo del Covid, ormai mascherine e banchi separati sono da tempo un ricordo e le scuole sono tornate a fare anche le gite di istruzione. È stato semmai l'anno del PNRR, con gli istituti che hanno lavorato per partecipare ai bandi e intercettare i fondi a disposizione per ammodernare le scuole con strutture e apparecchi nuovi. Un lavoro che, dal punto di vista amministrativo, è stato molto pesante, come spiega il presidente regionale dell'Associazione dei Presidi, Luca Gervasutti, che è anche preside del Liceo Stellini. Un bilancio condiviso anche da presidi di licei e degli istituti comprensivi di Trieste. Dopo le lezioni, le scuole riapriranno per gli scrutini e poi per gli esami. Trieste, Dario Rozzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. È in corso a Udine in corte d'assise la seconda udienza a carico del presunto omicidio di un senza tetto di 58 anni lo scorso aprile a Udine. La seconda udienza del processo per l'omicidio del senza tetto Luca Tisi è la giornata dei testimoni. Dopo la prima convocazione in corte d'assise a inizio maggio, davanti ai giudici Paolo Milocco e Paolo Lauteri, ai 6 giurati popolari, sfilano i testi, una quindicina in calendario tra mattina e pomeriggio, meno della metà del totale, interrogati dalla PM Lucia Terzariolle e controesaminati dagli avvocati difensori del reo confesso Bruno Macchi, Massimiliano Basevi e Cristian Buttazzoni. L'omicidio in Galleria Alpi avvenne all'alba del 15 aprile 2003. Macchi sferrò 85 coltellate, 43 delle quali al capo, a Luca Tisi. La vittima è stata descritta da chi lo conosceva come persona molto tranquilla, riservata, abitudinaria, pulita, non accettava elemosine, ma ha creato un problema. Dormiva per terra in galleria sempre nel solito punto, nel suo sacco a pelo scuro. Macchi, presente in aula, descritto a sua volta come persona allegra, solare, sportiva, nessun comportamento violento segnalato in passato. Il giorno dopo l'omicidio, il 29enne aveva cambiato colore dei capelli, da biondo ossigenato a scuro, ricordano due esercenti. Passava spesso dal biondo al colore naturale, ricordano invece altri testimoni. Sentiti anche due conoscenti passati da casa Macchi la sera dopo l'omicidio. Uno di loro aveva notato un coltello da subacqueo sul tavolo. Due amici hanno raccontato che non era solito portarlo con sé in giro. Contestate all'imputato, che rischia l'ergastolo, gli abietti e futili motivi, la crudeltà e l'aver approfittato di una persona che non si poteva difendere, oltre che al porto abusivo del coltello. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Rispettare i tempi previsti dal medico per eseguire visite ed esami sta diventando sempre più difficile, a meno che non si metta mano al portafoglio. Questo lede il diritto costituzionale alla salute, ma i cittadini possono difendersi chiedendo il rispetto dei tempi direttamente alle aziende sanitarie. Mentre volano i ricavi delle cliniche private, la sanità pubblica, che è tra i beni più preziosi del nostro paese, è al collasso. Succede di spendere, e anche tanto, per visite ed esami privati perché il pubblico non garantisce i tempi, oppure il ricovero viene rimandato di mesi. Ci sono sportelli gratuiti gestiti da sindacati o da partiti o da associazioni che aiutano i pazienti a chiedere il rispetto dei tempi. Che cosa può fare il cittadino? Anna Agrizzi, avvocata e presidente dell'Associazione di del malato di Udine. Può rivolgersi al nostro sportello gratuitamente, senza dover neanche pagare una tessera, e può chiedere l'anticipazione della visita in base a quello che viene indicato nella prescrizione. Quello che è positivo è che normalmente, quando noi mandiamo delle segnalazioni, riusciamo ad ottenere un'anticipazione per la visita medica, ma purtroppo mai nei tempi indicati nella prescrizione. E quindi sostanzialmente, quando poi si deve andare privatamente a pagare appunto la visita privata, noi tentiamo la richiesta richiesta di rimborso per quanto riguarda il pagamento della visita privata, che ovviamente è maggiore rispetto al ticket. Tuttavia, in questo momento, per fare la richiesta di rimborso, soltanto l'azienda sanitaria Friuli Occidentale e la SUGI hanno attivato la procedura per poter essere autorizzati ad accedere al rimborso del pagamento della visita privata. Martedì il governo nazionale ha approvato un provvedimento per tagliare le liste d'attesa. Che cosa cambierà? Si tratta di un decreto legge che non prevede nessun tipo di novità, anche perché non è sostanzialmente finanziato. Quindi i 500 milioni di euro che sono stati già disposti per la riduzione dei tempi di attesa sono già stati disposti e sono già in parte spesi. Si favorisce tuttavia, tramite questo decreto legge, la libera professione, in quanto viene indicata la possibilità per i medici di lavorare il sabato e la domenica per ridurre le tempistiche di attesa, e tra l'altro le prestazioni di questi medici vengono detassate. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Restiamo in tema di sanità per parlare delle tempistiche per il trasferimento di alcuni reparti dal vecchio al nuovo ospedale di Pordenone. Inizierà a fine ottobre il trasloco nel nuovo ospedale di Pordenone attiguo all'attuale in via Montereale. Si partirà con le medicine, il pronto soccorso, medicina e radiologia d'urgenza, con l'obiettivo di essere operativi entro dicembre e di affrontare il prossimo inverno con più posti letto nella nuova struttura. In questa prima fase l'ingresso resterà quello attuale, a definire il cronoprogramma di massima il direttore generale ASFO Giuseppe Tonutti. Noi stiamo ragionando, ancora non posso dire che sia definitiva questa cosa perché abbiamo delle riunioni durante la fine di questo mese, però stiamo ragionando medicine pronto soccorso, medicina d'urgenza, radiologia d'urgenza nell'ingresso nel periodo che va da fine ottobre e metà dicembre. A febbraio lo step successivo saranno spostati il materno infantile, la terapia intensiva e la cardiologia. Per ultimi, in primavera, i reparti di chirurgia e le sale operatorie ancora tenuti. Materno infantile, terapia intensiva e cardiologia verso febbraio, verso aprile i reparti chirurgici con le sale operatorie. Tutto questo significa anche con gli ambulatori. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Massimiliano Ciarrocchi, direttore generale di Confindustria regionale di Confindustria Alto Adriatico, è il nuovo consigliere di amministrazione e vicepresidente di Area Science Park. La nomina è stata fatta dal Ministero dell'Università e della Ricerca. È stato assegnato a un medico dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di Trieste, Raffaele Dante Caposiena Caro, il premio per il miglior progetto di ricerca in ambito dermatologico della Società Italiana di Dermatologia, che è in questi giorni riunita a congresso a Catania. L'obiettivo del progetto di ricerca premiato consiste nell'applicazione degli algoritmi dell'intelligenza artificiale, deep learning, per migliorare diagnosi, valutazione del grado di attività di malattia e gestione terapeutica dell'alopecia areata utilizzando immagini dermatoscopiche. L'alopecia areata è una malattia autoimmune dal decorso imprevedibile che colpisce i follicoli piliferi del cuoio capelluto e il resto del corpo, causando la caduta dei capelli con una incidenza stimata tra l'1% e il 4%. Riprende a correre il mercato immobiliare in regione, gli ultimi dati FIAIP nel servizio. Un mercato immobiliare che sta riprendendo a correre dopo i dati negativi passati. La casa si conferma un bene rifugio per le famiglie del Friuli Venezia Giulia. Questo è quanto scaturito nella sede della Fondazione Friuli dal report FIAP Friuli Venezia Giulia, la federazione agenti immobiliari. Un mercato immobiliare che è molto condizionato dagli andamenti economici, ma che in regione conta un 40% di acquisti di seconde case da destinare al mercato degli affitti brevi. Un mercato che nel 2023 aveva chiuso con un dato di flessione rispetto all'anno precedente del 10%. Stefano Nursi, presidente regionale FIAP. La città di Gorizia sta avendo un segno più, seguita poi da Trieste, da Udine e da Pordenone. Devo dire che anche comunque tutte le località turistiche della regione stanno tirando molto bene. Qual è la tipologia di immobile? Ma indubbiamente il bilocale e il trilocale sono quelli più compravenduti, quelli più ricercati, mentre i meno ricercati sono forse i quadrilocali. Il taglio dei tassi di interesse porterà nuova vitalità? Ha già portato vitalità al mercato perché le banche lo avevano già previsto e quindi avevano già diminuito i tassi di interesse, quindi i mutui erano più accessibili. La diminuzione dei tassi di interesse, secondo il presidente regionale, in prospettiva rivitalizzerà il mercato. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Il tempo, il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 23,5 gradi. Il mare è quasi calmo con una temperatura di 23,5. Udine, Pordenone 25,5, Gorizia 27,5, Piancavallo 18, Forni di Sopra 22, Tarvisio 22,5, Tolmezzo 24, Monte Zoncolan 15,5, Grado 24,5, Lignano 27 con una temperatura del mare di 24 gradi. E ora sentiamo le previsioni del meteo per i prossimi giorni con Sergio Nordio dell'ARPA. Sulla regione abbiamo ancora condizioni di instabilità che nel pomeriggio di oggi interesseranno, diciamo, maggiormente la zona montana con dei probabili temporali, dei rovesci. Qualche temporale potrebbe interessare localmente anche la pianura, soprattutto le zone dell'alta pianura a ridosso della fascia montana, meno probabili invece sulla costa. Per quanto riguarda domani, l'instabilità è un po' più diffusa, quindi saranno probabili dei rovesci e dei temporali sparsi anche sulla bassa pianura della costa, oltre che sulla zona montana. Potrebbero esserci anche a più riprese nel corso della giornata, alternate a delle schiarite, e quindi tutto sommato una situazione mista. Per quanto riguarda domenica, partiremo con un tempo discreto, poco nuvoloso, variabile, però anche qua ci sarà un peggioramento nel corso del pomeriggio, con dei temporali un po' più diffusi che interesseranno la zona montana nelle prime ore del pomeriggio. Successivamente, nel tardo pomeriggio e in serata di domenica, i temporali si presenteranno un po' su tutte le zone della regione, ma il tempo poi in prospettiva all'inizio della prossima settimana. Le temperature sono in lieve aumento, quindi farà un po' più caldo nella giornata di oggi, anche domani. Questo sarà un altro ingrediente per l'instabilità, perché l'atmosfera è ancora molto umida nei bassi strati. Con l'aumento delle temperature proprio diventa più facile avere l'insorgenza dei temporali. Uno sguardo veloce invece all'inizio della settimana prossima, con un peggioramento quindi in arrivo. Sì, è previsto l'arrivo di una depressione atlantica che sarà piuttosto persistente sul Mediterraneo e anche sull'Europa. Questo porterà più riprese dei fronti, quindi tra lunedì e martedì una prima serie di fronti, poi anche nella seconda parte della settimana, quindi una settimana che probabilmente ci porterà piogge molto abbondanti sulla regione, e quindi per il momento l'anticiclone non è in vista. 60 operatori della Polizia Ferroviaria sono stati impegnati ieri sull'intero territorio regionale nella sesta giornata di controlli straordinari della campagna Stazioni Sicure. 22 gli scali ferroviari regionali e 2 i depositi bagagli controllati dagli operatori della Polfer in 24 ore, 738 le persone sottoposte a controllo e 9 quelle indagate. A Trieste, durante i controlli, è stato individuato un numeroso gruppo di migranti che hanno successivamente presentato domanda d'asilo. A 24 ore dalla giornata mondiale degli oceani, il report della WWF sulla salute del Mediterraneo, vittima dei cambiamenti climatici. Sempre più caldo e sempre più salato il Mar Mediterraneo, vero e proprio hotspot del cambiamento climatico. Il nuovo report del WWF parla di Mediterraneo bollente e proprio domani si celebra la giornata mondiale degli oceani. Oceani che stanno però subendo un costante aumento della temperatura sin dagli anni 70. Nel 2023 la temperatura media record è stata di 21,1 gradi. Le proiezioni indicano che questa tendenza continuerà. Ma cosa comporta? La tropicalizzazione è in aumento e poi le meduse, le specie aliene che si riducono. Ne parliamo con Carlo Franzosini, biologo dell'area marina protetta di Miramare. Che cosa succede nel nostro mare, per esempio nel Golfo di Trieste e non solo? Nel Golfo di Trieste spariscono specie relitte della glaciazione burniana di 20.000 anni fa, come il fucus, un'alga marrone che popolava i nostri scogli, e quella con le vescicole che da ragazzi si facevano scoppiare per gioco, e un'altra specie comune come la pannocchia, la squilla, canoccia, comunemente pescata, che oggi si trova in pochissimi esemplari e sta diventando una rarità. Sono specie che sono entrate con le glaciazioni e ormai sono destinate a diventare sempre più rare. Ma questo è un processo irreversibile? È un processo che dobbiamo assolutamente tamponare, rallentare il più possibile. Reversibile saranno tempi molto lontani a dircelo. Ma e l'innalzamento del livello del mare, che conosciamo bene anche nella stessa Trieste, è frutto di tutto questo? È una conseguenza, è la dilatazione termica della massa d'acqua alla quale si aggiungono le mareggiate dovute all'energia che si accumula nell'atmosfera, l'aria calda che scatena questi episodi di mareggiate che incominciano a far danni sensibili. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Trieste è a un passo dal ritorno in A1 dopo la seconda vittoria ottenuta a Desio contro Cantù con il punteggio di 83-73. La squadra biancorossa ha dato il meglio nei play-off con 8 vittorie su altrettante partite giocate. Lunedì, in un Pala Trieste gremito, ci sarà la prima opportunità per chiudere il conto e ottenere la promozione. A fine partita il collega di Rai Sport, Edi Dembinski, e il commentatore tecnico Sandro De Pol hanno intervistato il centro di Trieste, Francesco Candussi, protagonista nel finale di gara con un canestro risultato decisivo. Ascoltiamolo. Tanti complimenti Francesco, abbiamo detto l'hai chiusa, l'hai sigillata all'inizio facendoti trovare pronto in area e facendo male, poi colpendo anche dalla lunga. Intanto chapeau perché stai giocando dei playoff incredibili. Ma penso che tutta la squadra stia giocando dei playoff incredibili. Oggi Reyes è stato fenomenale, ci ha trascinato tutto il quarto quarto quando la partita era in bilico, e anzi adesso l'ho ringraziato perché non è facile per un giocatore così far arrivare una palla in angolo. Sono stato contento che abbia premiato la sua fiducia e adesso andiamo a casa la nostra e vediamo cosa succede. Ancora il lavoro non è fatto, però siamo carichi, siamo motivati e siamo un gruppo di persone vere. Francesco, non è finita, ma li ricordi i momenti di difficoltà, no? Anche con la vostra gente, e adesso sembrate in missione in questi playoff. Siete inarrestabili. Hai detto bene, noi siamo in missione perché ci crediamo, la nostra gente abbiamo avuto dei discrezzi, non ci sono delle comprensioni, non ci siamo capiti. Adesso la nostra gente ci fa sentire il loro calore, il loro supporto. Non mi diventi momenti difficili, però forse adesso in questi momenti è ancora più bello gioire con i miei compagni. Adesso testa gara 3 e resettiamo. Sandro? Cos'è successo? Cioè durante l'anno eravate una squadra alti, tanti bassi, particolari difficoltà, poi siete esplosi, c'è stato un detonatore? Penso che ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: abbiamo un gruppo di ragazzi fantastico, forse la miglior squadra con cui sia mai stato. C'è un ragazzo che è Bossi e De Angeli, sono come fratelli per me, ci troviamo sempre anche fuori dal campo, Bilde lo conosco nella vita, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: è un gruppo talmente bello che peccato non chiuderlo nella migliore memoria e non andarlo fino alla fine, succeda quel che succeda. Non abbiamo l'obiettivo in mente, noi abbiamo semplicemente di giocare su ogni possesso, perché questa squadra merita per il gruppo, per l'allenatore, ci ha chiesto delle cose difficili, io ho dovuto cambiare ruolo, da 5 sono passato a 4, però quindi un po' di attentamento ci vuole, però siamo carichi e adesso potremo andare tranquilli a gara 3 per cercare di portarla a casa, ma Cantù avrà scoperto la ragione. Subito in pista le atlete regionali impegnate nei campionati europei di atletica leggera a Roma. Poco fa la friulana Giada Carmassi è giunta quarta nella sua batteria dei 100 ostacoli col tempo di 13 secondi e 13 centesimi che vale la qualificazione alle semifinali. Finisce qui questa edizione del Giornale Radio che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Lorenzo Gerlinzoni. In regia per la parte tecnica Andrea Fontanot, ha collaborato in redazione Samantha Gonna. Tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.